Ad alta voce. Marco Foschi legge La Gloria di Giuseppe Berto. Appartato col battezzatore, mangiò anche lui radici e beve acqua, ringraziandone l'Eterno. Poi, quando il sole cominciò ad inclinarsi sulle aspre alture che ci separavano da Gerusalemme, chiamò i suoi e si avvicinò a mezzogiorno dove erano alture ancora più aspre e desolate, comunque terre che l'Eterno ci aveva dato. Gli andai dietro un po' a distanza, pensieroso, non lieto né triste. Rischi mi pareva di non correrne. I seguaci erano povera gente, certo non violenti. E quanto al resto, avevo già seguito più di un improbabile profeta. Precedeva di qualche passo il gruppetto dei suoi, camminando, raccolto in pensieri. Poteva anche non essere l'unto, l'incaricato della gloria finale, però il battezzatore, a parte la colomba, aveva parlato di lui con convincimento, proclamandolo a chiare parole maggiore di sé. Quindi, pur ammettendo che non fosse lui l'unto, qualcosa forse aveva a che fare con l'atteso, quello che doveva giungere per salvare il nostro popolo dai nemici e applacare le inquietudini, la mia compresa. Mi conveniva andargli dietro mentre con quel povero seguito, approssimandosi la sera, camminava in una direzione che era poi quella del deserto. Poteva anche darsi che, dopo l'avventura e la soddisfazione del battesimo, pure lui si avviasse alle pietre per interrogare e morire. Pazienza. Questo rabbi era quanto di meglio mi fosse capitato fino allora, e dietro a lui andavo per ragionamento, forse per incantamento, non per fede. Ma la fede, come venne detto più tardi, è data. Noi possiamo farci poco o niente. Paolo poi scrisse che dietro a te bisognava camminare per fede e non per visione. Ciò forse significa che l'incantamento che si può provare incontrandoti deve scendere nel profondo e diventare qualche altra cosa, pur rimanendo tutto sommato incantamento. Alla fede in te, a credere nella sostanza sperata, io arrivai, se ci arrivai, molto tardi. In effetti, quando tu volesti ch'io volessi. La sai lunga in fatto di incantamenti. Però quella sera che ti seguivo mentre andavi verso il deserto col tuo scarso seguito, non è che fossi del tutto incantato. Continuava a chiedermi se tu fossi davvero l'unto di cui andavo in cerca, o se soltanto avessi costruito dentro di te quella splendida e tremenda convinzione di cui io non ero stato capace. D'altra parte, non sapevamo nemmeno cosa ragionevolmente ci si dovesse attendere da uno atteso con tanta ansia e con tanta confusione di idee. Sicuramente doveva essere re e tu dei re possedevi la maestà e avrebbe dovuto guidarci noi, popolo scelto e benedetto, nel nome e con la forza dell'Eterno, ma verso che cosa dovesse guidarci non eravamo tutti d'accordo. La migliore gioventù di Gerusalemme, ad esempio, non aveva dubbi alla liberazione dai romani e alla sottomissione degli altri, i diversi da noi. La gente semplice, invece, sgomenta del dolore di vivere e ancor più della necessità di morire, immaginava il ritorno all'Eden, dove si sperava non ci sarebbero stati gli inconvenienti lamentati. Gli intellettuali, infine, i quali sembravano in possesso di informazioni più sicure, parlavano dell'acquisizione di beni non molto ben definiti, che comunque avevano a che fare con un'eternità di eternità. Pur concedendo agli intellettuali il diritto di essere oscuri, è chiaro che esiste una sola cosa tanto interminabile. Molti secoli dopo, un giudeo americano, anche lui quanto basta tormentato, domandò a se stesso e all'Eterno: qual è la filosofia della mia generazione? Trovò, spero con l'aiuto dell'Eterno, questa singolare risposta: non che Dio è morto. Un punto come questo è già stato sorpassato molto tempo fa. Forse bisognerebbe formularlo così: la morte è Dio. Sei dunque ancora splendidamente moderno, Gesù di Nazareth, e temo che continuerai ad esserlo finché l'umanità non avrà trovato il modo di raggiungere la fine dei tempi o, come dicevi più volentieri tu, la gloria. Ma noi non possiamo smettere di chiederci perché non fu raggiunta allora, per l'adempimento ultimo, la morte di Dio. Mancò la connessione del particolare con l'universale o qualche altra cosa? Ci fu impazienza o, peggio, precipitazione? Ragazzo, goditi la vita, ci ammoniva Coelet. Va dove va il tuo cuore e dove va lo sguardo dei tuoi occhi. Sempre Paolo pensava: pare che tu avessi una vita terrena tendente fin dal principio a considerarsi nella morte. È vero, lì andava il tuo cuore e lo sguardo dei tuoi occhi, ma non eri solo quel giorno sul fiume ad avere tal genere di tensioni. Sia il battezzatore che io portavamo i nostri segni. E in più si sa che la morte non è inesorabile per tutti. Per qualcuno è tentazione o addirittura speranza. Il mio cuore e lo sguardo dei miei occhi non ebbero incertezze quel giorno. Andarono a te. E se poi ti venni dietro, invece di restare col battezzatore, fu perché tu andavi verso una morte ben più alta di quella che si può attingere per capriccio di re o di regina. Non è che in tal modo mi sia goduta la mia giovinezza o quel che della giovinezza mi rimaneva, ma non c'era altra scelta. O c'era, a parte il tuo incantamento, altra scelta. Il libro non ci aiuta molto a capire. È già stato quello che è già stato quel che sarà, né tu ci aiuti. È riferita da Marco una tua risposta: sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro ai quali è stato destinato. Vorrei sapere, rispondesti così perché Giacomo e Giovanni ti stavano importunando con domande di vanità, oppure davvero, al di fuori del tuo e nostro potere, a qualcuno di noi qualcosa era stato destinato? E se a qualcuno qualcosa, perché non tutto a tutti? Anche la mia morte, anche la tua? Morimmo presso poco alla stessa ora, tu crocifisso sul Golgota, io poco lontano, impiccandomi, dicono, ad un albero di fico. Sarà poi vero che era un fico, uno degli alberi meno adatti per impeccarsi. Esemplificando un peccato, si chiama impenitenza finale, cui pare si debba negare misericordia. Ignominiosa conclusione. Invece la tua morte sulla croce che nelle intenzioni di coloro che ti volevano morto doveva essere non meno ignominiosa, divenne, un po' alla volta, apoteosi. Eppure, al momento, tutto si svolse con straordinaria semplicità, almeno stando a quel che riferisce Giovanni, quello di noi che tu amavi più degli altri, il quale tuttavia in quel momento supremo era preoccupato più di se stesso che di te, e forse se ne deve tener conto, riflettendo sul mancato raggiungimento. Racconta dunque, Giovanni, che tu, crocifisso tra due ladroni, dopo aver raccomandato a tua madre, che stava ai piedi della croce, di prendersi lui stesso come figlio, avesti sete e i soldati romani, che per qualche ragione dovevano seguire le parole di Davide, fecero bere alla tua sete aceto e, bevuto l'aceto, dicesti: è compiuto. Poi, chinato il capo, rendesti lo spirito. Cosa mai si fosse compiuto in quel momento, tu non avesti modo di spiegarlo, e quanto a Giovanni, è meglio non indagare troppo su quanto scrisse, altrimenti se ne potrebbe ricavare l'impressione che tu quel che avevi da compiere lo assolvesti raccomandando a tua madre di prenderselo per figlio. Avevi sopra la testa un cartello che ti diceva re, e intorno alla morte del re avvengono sempre meschine storie di successione. E io, che mi attendevo l'adempimento finale, capii che non mi restava altro che impiccarmi. Così l'umanità è ancora qui, a penare tra dolore di vivere e angoscia di morire, ma tu sei chiamato agnello di Dio, redentore, salvatore, mentre io porto un nome che vuol dire tradimento. Nella nostra vicenda, dove i manichei di tutti i tempi hanno trovato conforto, tu sei la luce e io sono la tenebra. Abbiamo confortato innumerevoli crudeltà e ingiustizie. Non è possibile che la tenebra sia soltanto tenebra, né forse la luce soltanto luce. Ma siccome gli uomini non sembra possano fare a meno di crudeltà e ingiustizie, io continuo ad essere la tenebra. Colui che tradì, che lo consegnò ai suoi nemici, intorno al quale non si sprecano molte parole. Su te, invece, sono state scritte fin troppe cose, formulate fin troppe ipotesi, sicché ognuno ti ha visto e ti vede a modo suo, sostenendosi a te nel bene e nel male, pace e guerra, rettitudine e furberia, povertà e ricchezza. Di te si sono serviti e si servono per costituire fraternità e tirannie, per celebrare e perseguitare, soccorrere e infierire. Quanti tuoi seguaci hanno dimenticato che per te operare su questa terra con giustizia e amore non è mai stato fine, ma via, per arrivare a collocarsi, quando avverrà l'adempimento, nel regno dei cieli. Tuo padre, ma non era effettivamente tuo padre, si chiamava Giuseppe e faceva il falegname a Nazareth. Tu, secondo certe profezie, dovevi essere del sangue dei re di Israele, e così i due evangelisti si industriarono a costruire per Giuseppe strabilianti genealogie, l'uno partendo da Abramo, l'altro ascendendo addirittura ad Adonai, attraverso Adamo, con in mezzo personaggi illustri, alcuni dei quali abbastanza malvagi, Sono incredibilmente pieni di atrocità e lussuria, oltre che di santità, i re del popolo scelto e benedetto, e in tal modo il falegname risultò di discendenza davidica, ma tu, col suo sangue, non avevi niente da spartire. Ecco infatti come avvenne la tua nascita. Maria, tua madre, era fidanzata con Giuseppe e prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, nulla sapendo dello Spirito Santo, avrebbe voluto farla processare, ma poiché non amava gli scandali, faceva progetti di rompere il fidanzamento privatamente. Nel frattempo, tuttavia, gli apparve in sogno un messaggero del Signore a rammentargli che esisteva una profezia in proposito. La Vergine concepirà e darà alla luce un figlio che sarà chiamato Emanuele. Ed egli ubbedì, prese la donna con sé e quando nascesti tu ti chiamò Gesù invece di Emanuele. E questo pare sia stato l'unico suo segno di contestazione in tutta la vicenda. Per il resto, si può immaginare la rassegnazione e forse anche la malinconia di questo bravo uomo cui era stata imposta un'avventura tanto straordinaria. In un villaggio come Nazareth, niente di buono ne usciva. Una storia di fecondazione per opera dello Spirito Santo poteva, se saputa, essere accettata con religione, ma anche, eventualmente, interpretata con scherno. Non erano molto propensi alla credulità né alla carità, poi lo si vide, quelli di Nazareth. Una situazione non tanto facile per un falegname, specie se di discendenza davidica, e si sa che le frustrazioni dei padri, anche di quelli putativi, finiscono per ripercuotersi sui figli. Ne nascono facilmente complessi di inferiorità. Dal lato opposto, la Vergine Madre altra alternativa non aveva, all'infuori di insistere con orgoglio sulla versione del concepimento per opera dello Spirito, e si mostrava esultante perché l'Altissimo aveva rivolto lo sguardo su di lei, umile serva, e sicuramente infinite volte dandoti il latte, cambiandoti i panni, cullandoti finché non avessi preso sonno, ti avrà detto e ripetuto che eri il figlio vivente di Dio. Può nascerne un complesso di superiorità che poi, agendo dall'inconscio, dà ad uno la forza di convinzione di cui un altro non è capace. Poi, per una questione di censimento insieme di profezia, nascesti non a Nazareth in Galilea, ma a Betlemme in Giudea, all'epoca del re Erode il Grande. Poco dopo arrivarono a Gerusalemme dall'Oriente dei Magi con preziosi doni da offrire al re dei Giudei che doveva essere già nato. Essi l'avevano saputo dalle stelle e andavano chiedendo in giro dove mai si trovasse questo nuovo re di cui peraltro nessuno sapeva niente. E il re Erode, superstizioso e insicuro, si impensierì fuori di misura e, consultati i suoi propri astrologi, decise di sopprimere tutti i bambini maschi dai 2 anni in giù a Betlemme e dintorni. Questo accadde. I soldati del re, anche qui c'era di mezzo una profezia, strapparono i bambini dalle braccia delle madri e li trapassarono e squartarono con le spade. Ci furono pianti e grandi lamenti. Rachele piangeva i suoi bambini e non voleva essere consolata perché erano morti. Te, però, non ti presero. Avvertito in sogno dal messaggero del Signore, Giuseppe era scappato con Maria, portandoti in salvo. Questa straordinaria avventura la fuga in Egitto, chissà quante volte ti sarà stata raccontata quando eri bambino. Prova ad una particolare vigilanza dell'Eterno su di te. Ma tu, crescendo, forse avrai cominciato a chiederti se, per mostrarti la sua sollecitudine, era proprio necessario che l'Eterno facesse una strage di innocenti. E può esserne nato un complesso di colpa, il pensiero che qualcuno dovesse pagare per una così misteriosa ingiustizia. Parecchi secoli dopo, uno scrittore francese, meditando sulla terribile agonia che tu scegliesti per te, proprio scegliesti, egli dice, e pensare che non era neanche credente, ebbe l'idea che la vera ragione di quella scelta fosse che tu sapevi di non essere completamente innocente a proposito degli innocenti sgozzati. Egli non era uomo da poterli dimenticare, scrisse lo scrittore, e la tristezza che si indovina in tutti i suoi atti non era l'inguaribile malinconia di colui che di notte sentiva la voce di Rachele gemere sui piccoli e rifiutare conforto. Il lamento saliva nella notte. Rachele chiamava i suoi figli morti e lui era vivo. Molto ben detto, probabilmente, ma tu, quella tua morte, nella quale fin dal principio veniva condensandosi la tua vita, non la pensasti mai come raggiungimento di pace individuale, e meno ancora come pagamento di un debito etico. Le cose furono molto più ingarbugliate di quanto immaginasse Albert Camus, e il senso di colpa annidato nel tuo inconscio non ti portava tanto a pagare una strage, quanto a fare in modo che stragi non ce ne fossero più. La tua dimensione fu sempre universale. Comunque non c'è dubbio che i singolari casi riguardanti la tua nascita e la tua avventurosa sopravvivenza, subito segnata dal sangue, ebbero peso sulla formazione della tua struttura psichica. Ti trovasti diviso tra la lusinga d'essere l'unto proveniente dall'eternità dello spirito e il presentimento di dover pagare perciò un prezzo che aveva vincolo con la morte. Fu il tuo dramma fino alla fine, quando l'agonia si chiamò passione. Tuttavia, finché fosti bambino a Nazareth, con un padre che rassegnatamente lavorava in legno e una madre casalinga che ti raccontava come una fiaba la sublime storia dell'annunciazione fattale da un angelo, la voglia d'essere figlio di Dio non trovò ostacoli. In effetti, la certezza d'esserlo la raggiungesti sorprendentemente presto, come racconta Luca.